Riflessioni da Marte. È vero, lo si nota in modo lampante anche da quassù, da Marte. La crisi economica è realmente scoppiata per tutti, proprio tutti. Se prima, sino a qualche giorno fa, come sottolineava l'ex presidente del Consiglio, i ristoranti erano pieni, adesso il ristorante del Senato è effettivamente desolantemente semivuoto. Del resto, sino a qualche settimana fa, se il filetto di orata in crosta di patate veniva servito in Senato per 5,23 euro e per il carpaccio di filetto con salsa al limone bastavano 2,76 euro, meno di un pacchetto di chewing gum, ora al ristorante del Senato di Palazzo Madama i prezzi si sono triplicati, quindi provate a fare 2,76 per 3, un prezzo pazzesco, straordinario per questo filetto e per il carpaccio. Non c'è più religione, avranno protestato i poveri senatori, e così hanno cominciato a frequentare osterie più economiche al di fuori di Palazzo Madama, anche loro dunque pesantemente vittime della crisi. E un altro evidentissimo segno di questa benedetta crisi è il seguente. Il presidente di Finmeccanica, Guarguaglini, travolto dallo scandalo di tangenti e appalti pilotati, si è dimesso mercoledì, ma con una buonuscita non di 40 milioni di euro come fu per Alessandro Profumo quando lasciò Unicredit, ma con soli, udite bene, 4 milioni di euro. Una miseria. Del resto, quando c'è crisi proprio per tutti, effettivamente. Ai vitalizi dei parlamentari è stata annunciata una stretta, pare che ci sia questa possibile stretta in previsione, e quindi pare che molti di loro, terrorizzati da un futuro di stenti, siano tentati di dimettersi a breve per evitare, diciamo, per aggirare così questi imminenti tagli. Come non comprenderli del resto? E a proposito di tagli, Monti è andato primariamente di domenica, per non perdere tempo prezioso, a tagliare la chioma, non proprio foltissima, ma sempre più folta dei predecessori. Ed ecco che scatta l'interrogazione parlamentare di alcuni esponenti leghisti, come in una specie di thriller. Quella domenica, in quel fuori orario, il professor onorevole presidente del Consiglio Mario Monti si è fatto rilasciare o no dal prodigo barbiere di Siviglia, ma in quel di Milano, la ricevuta fiscale. Questa è l'interrogazione parlamentare, il giallo si infittisce. Nel frattempo, mentre Don Verzè, il prete mega manager indagato per la bancarotta e gli scandali del suo impero, il San Raffaele, dice di essere un Cristo in croce, dimenticando forse per l'età che Cristo non aveva un jet personale, non era sospettato di dare ordine di incendiare terreni e non aveva rapporti con i servizi segreti, dicevamo, nel frattempo un altro giallo aleggia sul nuovo governo. Chi è il vero Braga, come anche diceva lì sulla terra l'ascoltatore? Chi è colui che è stato nominato sottosegretario all'agricoltura? È Francesco? Non è Francesco, avrebbe detto Battisti. È Francesco l'ingegnere alimentare che vive in Canada? Oppure Franco, esperto di costruzioni antisismiche? Non è ancora chiaro, ma certo sia l'agricoltura è più idoneo, effettivamente, un esperto agroalimentare, tutto sommato, per un paese ai limiti del collasso, un esperto anticrolli potrebbe essere piuttosto utile. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran casino.